Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori, bentornati a Dietro la Notizia. Oggi parliamo di sindaci, di presidenti della provincia, di governatori delle regioni. Ne parliamo sulla base della classifica realizzata dal Sole 24 Ore, da IPR Marketing per il Sole 24 Ore, nell'annuale sondaggio Governance Poll 2008. È una classifica che appunto mette alla prova i sindaci, i presidenti delle province e i governatori delle regioni. La vedremo tra poco, ma saluto anche il nostro ospite Gianfranco Pasquino. Buongiorno professor Pasquino. Buongiorno a voi tutti. Gianfranco Pasquino, politologo, docente di scienze politiche all'Università di Bologna, è stato anche parlamentare dei DS o dei PDS, non ricordo, professor Pasquino. Tempo. Sono stato parlamentare della sinistra indipendente. Della sinistra indipendente. Esatto. Grazie mille. E allora parliamo di questa classifica. In sintesi, i governatori al primo posto, questa è già una sorpresa, Raffaele Lombardo della Sicilia, che scippa la prima posizione a Roberto Formigoni, che la occupava negli anni scorsi. Per i presidenti delle province invece al primo posto, anche qui una sorpresa, il presidente Giuseppe Castiglione di Catania, seguito dal presidente della provincia di Messina e poi di Palermo. Per i sindaci, i comuni, al primo posto è Verona con Flavio Tosi, seguito da Sergio Chiamparino di Torino e da Giuseppe Scoppelliti di Reggio Calabria. Ecco, se confrontiamo un po' questa classifica con quella che solo poche settimane fa, lo stesso Sole 24 Ore, ha realizzato sulla qualità della vita nelle città e nelle province, notiamo innanzitutto una cosa: in quella classifica della qualità della vita le province siciliane erano agli ultimi posti, e invece in questa classifica sul consenso verso i sindaci e verso i governatori, soprattutto verso il governatore con Raffaele Lombardo, il governatore della Sicilia è addirittura al primo posto. Allora professor Pasquino, c'è un gradimento verso la politica che prescinde anche un po' dalla qualità della vita nelle regioni o nelle città? Ma certamente sì, però significa sostanzialmente che gli elettori che hanno votato in maniera massiccia Lombardo e che presumibilmente, qui non ho i dati precisi, hanno votato in maniera abbastanza considerevole per i tre presidenti delle province che lei ha menzionato, mantengono le loro preferenze. Cioè credo che qui non ci sia tanto una valutazione su quello che è stato fatto, d'altronde anche poco tempo che Lombardo è stato eletto, ma è semplicemente ribadire il loro consenso, cioè alla fine quello è il governatore che hanno votato e dunque mantengono stima, mantengono un certo livello di approvazione, mentre quando gli si chiede come vanno le cose abbiamo visto che rispondono in maniera piuttosto diversa. Ecco, però ecco, questa classifica con il 67% di consensi per appunto il governatore Lombardo, che cresce rispetto alle elezioni dove aveva avuto il 65%, ed è una crescita per esempio anche per il sindaco di Verona, che il sindaco di Verona ottiene il 75% addirittura dei consensi rispetto alle elezioni che questi qui sono molto precedenti, aveva ricevuto il 66,7%, e c'è quindi anche da parte comunque quasi una volontà di non smentirsi da parte degli elettori e quindi una soddisfazione per quanto hanno scelto. Vediamo un po' questa classifica dei sindaci. Abbiamo al primo posto Verona, poi Torino con Sergio Chiamparino, quindi al primo posto un esponente di destra e al secondo posto un esponente di sinistra, poi Giuseppe Scoppelliti, anche qui della Casa delle Libertà, al terzo posto, e al quarto posto Salerno, Vincenzo De Luca del centro-sinistra. E il centro-destra e il centro-sinistra si alternano anche successivamente: Reggio Emilia, Graziano Del Zio del centro-sinistra, e poi Isernia, Gabriele Melogli del centro-destra. Quindi diciamo, professor Pasquino, possiamo dire che c'è la politica del realismo: il sindaco vale se funziona e non per la targa che ha? Ma nel caso del sindaco la situazione è diversa rispetto a presidente delle province e governatori, perché il sindaco è l'autorità più conosciuta. Tutte le ricerche dicono che i cittadini sono in grado al 90%, qualche volta al 95%, di dire qual è il nome del loro sindaco, il quale incidentalmente è stabile nel suo mandato, cioè non è come una decina d'anni fa quando potevano essere sostituiti in corso d'opera, e spesso lo erano. e quindi il sindaco acquisisce una sua visibilità, probabilmente ha un suo prestigio, i cittadini sanno che il sindaco ha anche grandi poteri decisionali e dunque premiano evidentemente chi poi li esercita. Questo deve essere il caso di Tosi a Verona. Per i sindaci di centrodestra probabilmente c'è anche l'effetto governo, c'è un governo di centrodestra e probabilmente riescono ad avere qualche vantaggio in più dalla visibilità del governo che si ripercuote anche su di loro. Mi stupisce, se posso fare un'aggiunta, che nella graduatoria non ci sia Cacciari. Cacciari è notoriamente un sindaco bravo, governa una città importante come Venezia e dunque me lo sarei aspettato nelle prime posizioni. Ecco, Cacciari è... Cacciari è al 62esimo posto, il sindaco di Venezia ha un 53% di consensi e per andare vicino a lei ancora più in basso c'è Sergio Cofferati che è all'87esimo posto, due sindaci che sono molto conosciuti ma il cui consenso popolare sembra essere abbastanza ridotto. Io ricordo gli ascoltatori l'800 24 00 24 se vogliono intervenire, ma su questo sentirei Gianfranco Pasquino. Ma nel caso di Cacciari sono sorpreso, perché Cacciari non soltanto è visibile, secondo me è anche un buon sindaco, almeno da quello che mi dicono gli amici veneziani e in generale quando vado a Venezia, ed è naturalmente, però forse questo elemento, è anche un sindaco controverso, perché prende posizioni anche su questioni nazionali e probabilmente ha creato, come dire, meno consenso intorno alla sua figura. Nel caso di Cofferati è stato straordinariamente controverso come sindaco e per di più, dopo aver detto che avrebbe accettato la ricandidatura a luglio, a ottobre improvvisamente ha detto che se ne andava e quindi il livello di consenso che riscuote è evidentemente segnato da queste sue azioni, non azioni e anche dalle controversie che ha creato in città. Professor Pasquino, esiste ancora un partito dei sindaci? È difficile dirlo, perché a questo punto la situazione italiana si è più bipolarizzata o quantomeno polarizzata che nel passato e quindi i sindaci in realtà sono anche rappresentanti da un lato del governo, cioè sono vicini alle posizioni del governo e giustamente, e dall'altro rappresentano invece posizioni di opposizione, quindi è difficile che riescano a mettere insieme delle loro esigenze e a creare questo partito dei sindaci che abbia una certa omogeneità di posizioni. In più il problema sembra essere in questo momento il cosiddetto partito del nord, e forse se deve esserci un partito dei sindaci allora dovrebbe essere il partito dei sindaci del nord, poiché però questa operazione viene condotta prevalentemente da Chiamparino, giustamente valutato in maniera positiva, e da Cacciari, è chiaro che senza l'apporto per esempio del sindaco di Milano, della signora Moratti, sarà difficile avere un paese del nord. Comunque non sembra che i sindaci abbiano voglia di farsi un partito, e sembra invece che abbiano capacità di governare le loro città, che è quello che conta. Ecco, per parlare della Moratti è al 30esimo posto, a 57% di consensi, in crescita rispetto al 52% che ha ottenuto il giorno delle elezioni, quindi c'è un sostanziale gradimento da parte dei cittadini milanesi del sindaco Moratti. Ovviamente questa classifica è stata compilata, questo sondaggio è stato effettuato prima della nevicata, forse la nevicata e come il comune ha reagito ha provocato qualche consenso in meno o magari qualche consenso in più, perché qui le considerazioni e i giudizi su come ha saputo rispondere al comune al fatto di una nevicata che del tutto normale dovrebbe essere in inverno ha creato comunque qualche disagio, ma la città è certamente complessa. Abbiamo un ascoltatore, Alberto da Napoli, buongiorno. Buongiorno, volevo esprimere in sostanza la mia testimonianza sul, pur essendo appunto napoletano, da un po' di tempo lavoro a Salerno, e la forte gradimento che i salernitani esprimono per il loro attuale sindaco De Luca. E quello che un po' manca a Napoli, che purtroppo insomma siamo amministrati molto male, e invece a Salerno insomma posso testimoniare il forte gradimento appunto che i salernitani per questo sindaco ha saputo rivalutare molte zone che erano assolutamente degradate, un sindaco che assolutamente è molto bravo in quanto ha saputo assolutamente far fronte a molte cose negative della città, ha rilanciato assolutamente in modo più assoluto l'immagine di Salerno e poi un esempio assoluto che dovrebbe seguire Napoli, che purtroppo pur essendo una città con grandi potenzialità è amministrato assolutamente molto molto male. Grazie di questa testimonianza. Salerno è infatti al quarto posto con Vincenzo De Luca, 70% dei consensi, mentre non l'avevo detto, l'avremmo detto nella seconda parte della trasmissione, Napoli è all'ultimo posto, al 105° posto, Rosa Russo Iervolino ha il 39% dei consensi e anche un'altra città vicina, Caserta, è al posto precedente, 104° posto con il 40% dei consensi. Ma prima di sentire l'opinione del professor Pasquino lascio la linea al traffico. Dietro la notizia. Buongiorno, bentornati a Dietro la Notizia. Parliamo della classifica dei sindaci, dei presidenti delle province, dei governatori, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore con un sondaggio IPR Marketing. Una classifica che, lo dicevamo in conclusione della prima parte, vede un po' le due Italie di fronte. Per i sindaci al primo posto Verona, poi Torino, Reggio Calabria, al quarto posto Salerno e all'ultimo posto Napoli, al penultimo Caserta. Proprio su questo ci eravamo lasciati anche con il professor Gianfranco Pasquino, politologo, docente di scienze politiche all'Università di Bologna, ex deputato della sinistra. E professor Pasquino, lei è stato sempre abbastanza critico verso l'atteggiamento della sinistra nel comune di Napoli e nella regione Campania. Questa classifica dimostra che forse qualcosa andava fatto anche prima. Sì, non c'è dubbio. Fermo restando però, come giustamente diceva Alberto, che il sindaco di Salerno, De Luca, è un sindaco capace e quindi giustamente ottiene un livello elevato di valutazione. Mentre è chiarissimo che oramai da parecchio tempo Napoli non è governata, probabilmente dovremmo dire che è molto mal governata, e Caserta è in qualche modo nell'orbita napoletana e quindi non stupisce che anche il suo sindaco stia andando male nelle valutazioni dei cittadini. È una situazione molto brutta che rivela incidentalmente che nelle prossime elezioni il cambio di sindaco e il cambio di maggioranza sono assolutamente probabili e a quel punto però si vedrà se il problema era dei sindaci o se il problema è purtroppo di alcune condizioni strutturali sia di Napoli che di Caserta che sono difficilissime da cambiare. Ma questo potrebbe dimostrare anche che in fondo sui sindaci l'ideologia non conta più nulla, quello che conta è fare bene il proprio mestiere, pulire le strade, tenere a bada appunto tenere la sicurezza del territorio, coordinare gli interventi è forse un dato fondamentale, prescindere dal fatto dell'essere di destra o di sinistra, professor Pasquino. Ma c'è un famoso detto spagnolo che viene citato qualche volta anche in maniera eccessiva, che asfaltare non è governare, però non c'è nessun dubbio che chi non sa asfaltare probabilmente non riesce neanche a dare l'impressione di saper governare e quindi il quotidiano di una città è molto importante per i cittadini. Dopodiché se il sindaco magari è anche rappresentativo perché riesce a cogliere alcuni aspetti di emozioni, di aspettative, di speranze della città, tanto meglio, però indubbiamente giorno dopo giorno i cittadini si muovono in una città, incontrano ostacoli o facilitazioni, vedono che la città è pulita, la città è bella, la città è lasciata andare e questo influisce giustamente in maniera molto rilevante poi sulle loro valutazioni. Grazie, passiamo da Napoli a Milano. Federico, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Sì, buongiorno. Senta, io ho appena sentito una critica al sindaco Moratti per come è stata affrontata l'ultima nevicata a Milano. Ecco, io vorrei fare osservare che una nevicata di questo ordine di grandezza c'è stata soltanto nel 1985. Negli anni successivi noi 10 centimetri di neve, questa volta sono stati una trentina, non li abbiamo mai più avuti. Ora, pretendere che un comune mantenga per 5 lustri una struttura di spazzaneve, reclutamento di spalatori, eccetera, atta ad affrontare una nevicata così, e criticarlo perché non l'ha fatto mi sembra veramente una frase del tipo piove governo ladro. Io piuttosto alla Moratti tuterei questo accanimento nel volere l'Expo che costerà 7 miliardi di euro, forse anche 8, cioè il risparmio previsto per esempio con la legge Gelmini sulla scuola pubblica. Ecco, io imputerei questo accanimento quando c'è un patrimonio edilizio, di edilizia pubblica, case popolari e di scuole elementari che sono sotto il comune, in totale degrado, che richiederebbe probabilmente investimenti paragonabili e che invece viene completamente trascurato. Grazie, grazie per queste due osservazioni. Ecco, sul fronte della Levicata avevo detto prima che il giudizio era controverso, c'era stato chi aveva criticato, che aveva sottolineato appunto che era stata una cosa in parte eccezionale, anche se d'inverno spesso nevica, in parte eccezionale appunto perché, come ricordava Federico, indubbiamente una nevicata di questo tipo si era verificata solo più di 20 anni fa. Ecco, però indubbiamente anche la capacità di organizzare di fronte delle cose impreviste era qualcosa che può essere può avere un significato, e di fatto poi dopo 3 giorni sono stati utilizzati i militari, forse potevano essere richiesta prima l'utilizzazione dei militari che non aspettando dopo 3 giorni quando è arrivato il gelo. Ma qui appunto il giudizio sul sindaco di Milano può essere controverso, può essere appunto visto da una parte o dall'altra. Indubbiamente la risposta della città c'è stata, e una certa efficienza nel pulire le strade con i mezzi tradizionali c'è indubbiamente stata, quindi non certo tutto è negativo, qualcosa di meglio però poteva essere fatto. Sull'Expo indubbiamente siamo di fronte a una vicenda direi brutta, perché si sta discutendo ancora di formule, di stipendi addirittura, di cariche, di incarichi, e non si sta discutendo invece di cose da fare, di strategie, di progetti. Il tempo sta passando e stiamo facendo indubbiamente una brutta figura su questo fronte, ma la scelta ormai è compiuta. Bisognerebbe veramente a questo punto o fare una scelta decisa, andare avanti facendo tutte le scelte conseguenti al fatto di organizzare questa grande manifestazione che può essere veramente una svolta anche per il Nord, ma indubbiamente bisogna essere conseguenti in questo e non perdere più tempo, se ne è perso fin troppo finora. Maurizio da Varese, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Sì, no, io volevo soltanto dire che io abito nella zona di Varese, nella provincia di Varese, precisamente nell'ambito della Malpensa, e praticamente il sindaco della mia città, ma comunque penso che sia una cosa un po' generale, tendono ad abbandonare le periferie delle loro città, anche se piccole, pur magari pensano più dove ad abbellire, magari non so, il centro del paese, magari con opere meno sicuramente più visibili, dove hanno più consensi, però magari meno necessarie, come magari non so, dei marciapiedi nelle periferie, degli attraversamenti pedonali, delle cose più, secondo me, più utili, e comunque più attenzione alle periferie in generale. Ecco, grazie. Grazie mille, grazie di questa testimonianza. Indubbiamente anche chi abita in periferia vota, anche il sindaco dovrebbe essere interessato a ottenere il consenso di chi abita in periferia. Il giudizio di Gianfranco Pasquino. Ma io pensavo che invece i sindaci ci tenessero ad avere, come dire, l'insieme della loro città, comprese le periferie, bene organizzate. Incidentalmente in alcune città grandi, come può essere per l'appunto Milano, Torino, ma in un certo senso anche Bologna, l'idea è di avere delle aree metropolitane, quindi delle città metropolitane, dove ci siano tutti i servizi integrati, e questo dovrebbe ridurre alcuni costi, cioè produrre, come dice, economie di scala, ma non c'è nessun dubbio che se le periferie sono accoglienti, questo consente anche un decentramento che è molto funzionale al buon governo di una città. Se posso fare un'aggiunta sul sindaco Moratti, il problema, al di là naturalmente degli aspetti tecnici che i milanesi, e quindi anche lei conosce molto meglio di me, è che c'erano molte aspettative sul sindaco, cioè il sindaco manager dava l'idea di essere poi in grado di risolvere anche problemi improvvisi di una certa entità. Non so quanto grave sia stata la nevicata, ma per esempio a Torino, che mi dicono ha nevicato grosso modo quanto a Milano, non si è presentato nessun problema, e quindi bisogna mettere questo in un contesto di aspettative che in questo caso forse non sono state del tutto soddisfatte. E questo, professor Pasquino, siamo in conclusione, vale anche per Bologna? E le aspettative erano molto elevate, perché il sindaco arrivava con questo alone dell'uomo che aveva in fondo prodotto la maggiore manifestazione di opposizione al governo Berlusconi del periodo tra il 2001 e il 2006, nella fattispecie nel 2003, e sembrava essere un uomo carismatico e avere molte qualità anche di popolarità che contano naturalmente. Dopodiché le ha disattese totalmente, sembra soprattutto, e questa è l'immagine che la maggior parte dei bolognesi ha poi tratto da questa fase, che non fosse davvero interessato alla città, come si dice con un termine politichese che io non apprezzo, ma che però viene utilizzato, è sembrato che non amasse la città, e così tanto che naturalmente se ne andava via durante i weekend, non partecipava ad alcune attività importanti o alcuni eventi importanti, e tutti notano, e qualcuno critica però questa mia affermazione, che non era presente allo stadio quando il Bologna ha fatto l'ultima partita che lo ha portato in Serie A. E non era un particolare marginale però, perché quello è un momento in cui la città ci teneva a che la squadra tornasse in Serie A e il sindaco se n'è andato fuori. E quindi in realtà lentamente, gradualmente, ma in maniera poi definitiva, ha appannato la sua immagine. Se ne va senza nessun impianto. Grazie professor Pasquino, grazie anche per essere stato con noi tutta la trasmissione. Indubbiamente il punto fondamentale è che il sindaco deve amare la città, poi saranno i cittadini di ogni città a giudicare il proprio sindaco, il proprio presidente della provincia, il proprio governatore. Ci fermiamo qui, tra poco Viva Voce parlerà ancora di città, parlerà soprattutto dell'aspetto degli asili nido, di un problema molto forte per le famiglie. L'appuntamento con Dietro le Notizie per domani.